La nobile virtù Beatrice intende per lo libero arbitrio, e però guarda che l'abbia mente sa parlar ten prende. La luna, quasi a mezzanotte tarda, facea le stelle a noi parer più rade, fatta come un secchion che tutto arda. E correa contra il ciel per quelle strade che il sole infiamma, allor che quel da Roma tra sardi e corsi il vede quando cade. E quell'ombra gentil, per cui si noma Pietola più che villa mantovana, del mio carcar di posto avea la soma. Perch'io, che la ragione aperta e piana sovre le mie questioni avea ricolta, stava com'uom che sonnolento vana. Ma questa sonnolenza mi fu tolta subitamente da gente che dopo le nostre spalle a noi era già volta. E quale smeno già vide da Sopo lungo di sé di notte furia e calca, pur che i teban di Bacco avesse ruopo, tale per quel giron suo passo falca, per quel ch'io vidi di color venendo, cui buon volere e giusto amor cavalca. Tosto fur sovra noi, perché correndo si movea tutta quella turba magna, e due dinanzi gridavan piangendo, Maria corse con fretta la montagna, e Cesare per soggiogare Ilerda punse Marsiglia, e poi corse in Ispagna. Ratto, ratto, che il tempo non si perda, per poco amor, gridavan gli altri appresso, che studio di ben far grazia rinverda. O gente, in cui fervore acuto adesso ricompie forse negligenza e indugio, da voi per tiepidezza in ben far messo? Questi che vive, e certo io non vi bugio, vuole andar su perché il sol ne riluca, però ne dite onde presso il pertugio. Parole furon queste del mio duca, ed un di quegli spiriti disse: vieni di retro a noi che troverai la buca. Noi siamo di voglia moverci si pieni che ristar non potem, però perdona se villania nostra giustizia tieni. Io fui abate in San Zeno a Verona, sotto l'imperio del buon Barbarossa, di cui dolente ancor Melan ragiona. E tale ha già l'un piede entro la fossa che tosto piangerà quel monistero, e tristo fia d'avervi avuto possa. Perché suo figlio, mal del corpo intero e della mente peggio e che mal nacque, ha posto in luogo di suo pastor vero. Io non so se più disse o se si tacque, tant'era già di là da noi trascorso, ma questo intesi e ritenermi piacque. E quei che m'era ad ogni uopo soccorso disse: volgiti in qua, vedine due all'accidia venir dando di morso. Di retro a tutti dicean: prima fu morte la gente a cui il mar s'aperse che vedesse Giordan le rede sue. E quella che l'affanno non sofferse fino alla fine col figliuol d'Anchise, se stessa vita senza gloria offerse. Poi, quando fur da noi tanto divise quell'ombre che veder più non potersi, nuovo pensier dentro da me si mise, dal qual più altri nacquero e diversi, e tanto d'uno in altro vaneggiai che gli occhi per vaghezza ricopersi e il pensamento in sogno trasmutai. Fine del canto 18.